Vangelo di Marco, capitolo 4. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare, e una gran moltitudine si radunò intorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la moltitudine era a terra sulla riva. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: «Udite! Ecco, il seminatore uscì a seminare. Ed avvenne che, mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono. Ed un'altra cadde in un suolo roccioso, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si levò, fu riarsa, e perché non aveva radice, si seccò. Ed un'altra cadde fra le spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e non fece frutto. Ed altre parti caddero nella buona terra, e portarono frutto che venne su e crebbe, e giunse a dare qual 30, qual 60 e qual 100. Poi disse: «Chi ha orecchi da udire, oda». Quando egli fu in disparte, quelli che gli stavano attorno, coi 12, lo interrogarono sulle parabole, ed egli disse loro: «A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che son di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché, vedendo, vedano sì, ma non discernano, e udendo, odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi». Poi disse loro: «Non intendete voi questa parabola? E come intenderete voi tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E parimenti quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola, la ricevono subito con allegrezza, e non hanno in sé radice, ma sono di corta durata, e poi, quando vengono tribolazione o persecuzione a cagione della parola, sono subito scandalizzati. Ed altri sono quelli che ricevono la semenza fra le spine, cioè coloro che hanno udita la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrate in loro, affogano la parola e così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la colgono e fruttano qual 30, qual 60, qual 100. Poi diceva ancora: «Si reca forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è ella recata per essere messa sul candeliere? Poiché non v'è nulla che sia nascosto se non in vista d'essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi da udire, oda». Diceva loro ancora: «Ponete mente a ciò che voi udite. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, e a voi sarà data anche la giunta, poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha, anche quello che ha gli sarà tolto». Diceva ancora: «Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra, e dorma e si levi, la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito e vi mette la falce, perché la mietitura è venuta». E diceva ancora: «A chi somiglieremo il regno di Dio? O con qual parabola lo rappresenteremo? Esso è simile ad un granello di senapa, il quale quando lo si semina in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa maggiore di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra sua possono ripararsi gli uccelli del cielo. E con molte così fatte parabole esponeva loro la parola, secondo che potevano intendere, e non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. E in quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». E i discepoli, licenziata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca, e vi erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, talché ella già si riempiva. Or egli stava a poppa dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo?» Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» E il vento cessò, e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?»